gelosia, tiranna degli affetti, quasi presso al mio ben reo mi rendesti. Tu pietosa dolesti, alcina dal mio segno il mio timore, perdono amico, è sempre cieco amore.